piscatole che insistono a proporre il punto di vista proprio dei loro elettori. Che il diritto a rompere le scatole ai governanti, opponendo il loro punto di vista a quello degli elettori, sia storicamente la base della democrazia, e l'esigenza stessa in base alla quale la democrazia è stata inventata, non sembra non ricordarlo nessuno. Come nessuno sembra rendersi conto che a questa conclusione ci ha portato con inevitabile conseguenzialità una logica maggioritaria che un referendum improprio e anticostituzionale ci ha impropriamente e incostituzionalmente imposto 5 anni fa. Il maggioritario, la riduzione delle capacità rappresentative del Parlamento, il premierato, il presidenzialismo, lasciando perdere la foglia di fico del semi, e sono tutte invenzioni successive di una classe politica che è incapace di svolgere la propria funzione, vuoi per inettitudine, vuoi per rapacità, chiede paradossalmente che le si concedano poteri sempre nuovi, sempre più ampi, che il sistema sia sempre più rigido e sempre meno esposto a critiche e a controlli sgraditi. E non credo che a questa obiezione si possa ribattere che un presidente eletto dalla maggioranza dei cittadini esprime comunque la volontà popolare e quindi funge da garanzia di democraticità del sistema. Non si può, perché è un compito un po' grave per le spalle di un singolo. E poi, siamo proprio sicuri che l'elezione diretta di chi che sia una garanzia di democraticità? L'esperienza delle amministrative ci ha insegnato che i candidati a quelle elezioni, soprattutto quando la corsa stringe a 2, tanto per cominciare si guardano bene dal precisare il proprio punto di vista sui problemi scottanti, perché ciascuno deve pescare nell'elettorato dell'altro e quindi praticamente è costretto ad avere un programma identico al suo. E poi, visto che gli elettori comunque in base a qualcosa devono pur scegliere, tendono maledettamente a concentrarsi sul compito di esibire di fronte a loro una personalità gradevole, di incarnare un tipo umano simpatico, di vendere non tanto la volontà politica quanto l'immagine. Succede dappertutto. A determinare la scelta sono sempre più i confronti televisivi, la capacità di essere più bravo dell'avversario in diretta, che comprende notoriamente quella di scegliere o di farsi scegliere la cravatta giusta e la pettinatura più conveniente. E ogni tanto può capitare che ne sia eletto uno brutto e antipatico, come il nostro attuale sindaco, ma storicamente la tendenza è l'altra. La società dello spettacolo spettacolarizza anche i suoi leader e le procedure con cui sono investiti. Ma visto che avere una buona immagine non è in alcun modo garanzia di capacità di governo, può capita, che il leader eletto, direttamente premier o presidente che sia, non sia né forte né debole, sia semplicemente irrilevante, sia un fantoccio sorridente messo lì a occupare una posizione visibile. Tanto a governare, senza essere visibile, ci penserà sempre qualcun altro, che sarebbe ovviamente il massimo dell'efficienza, il minimo della democraticità, come si voleva dimostrare. E a proposito di elezioni dirette, spero che mi concediate di rivolgere un deferente saluto ad Aldo Fumagalli, che lascia il Consiglio Comunale di Milano, concludendo, spero definitivamente, una breve e ingloriosa carriera politica. Nell'annunciare la grave decisione, l'ex candidato sindaco ha detto tante belle cose sui rapporti tra partiti e società civile, ma la sua motivazione, l'hanno capito tutti, è piuttosto terra a terra. Lui non vuol fare il consigliere comunale. Per lui o si è sindaci o niente. A me tanta determinazione ha fatto venire in mente quegli asseriti clienti della Standa che si esibiscono castamente nudi sui manifesti pubblicitari della nota catena di grandi magazzini, perché anche per loro vale il principio del o vera pelle o niente, o puro lino o niente, o seta purissima o niente, eccetera. È una logica anche quella. Peccato che nel caso del non onorevole Fumagalli sia esattamente opposta a quella in nome della quale a suo tempo ci ha chiesto di votarlo. Non dovete dire o quello che voglio io o niente, ci raccomandavano a nome suo numerosi soloni, qualcuno anche dai microfoni di questa radio, ahimè. Non avete capito niente della logica del maggioritario, quella per cui si sceglie il meno peggio, il più vicino ai nostri desideri, sì, ma nell'ambito della disponibilità, magari non è vera pelle, no, magari non è purolino, magari non è proprio di sinistra, magari fa un pochino schifo, ma questa è la vita, votatelo e vedrete. Adesso abbiamo visto. Noi dovevamo sceglierlo perché era meno peggio, era il meno peggio. Lui, il meno peggio della sua avventura politica, sceglierlo proprio non ha voluto. Per lui la politica si fa solo in posizione esecutiva, solo se si comanda. Non crede all'opposizione, lui non crede alla necessità di rappresentare comunque quel 47% di imbecilli che l'hanno votato. Come se Jospin, sconfitto alle presidenziali di 2 anni fa, avesse sdegnosamente rifiutato il ruolo di capo dell'opposizione, lo stesso che gli ha permesso a lui e a tutta la gauche la clamorosa rivincita di domenica scorsa. Non facciamo paragoni indebiti. A Milano, in Italia, di rivincite del genere, finché ci affideremo a tali mezze calzette, non ne avremo di certo.